Stai passeggiando in un bosco. Ma vedi che questo bosco non ha tanti fiori. E allora decidi di seminare dei fiori. Controlli la tasca sinistra e magicamente trovi un seme. È un seme di colore blu. Blu iridescente, un blu profondo. È un seme sicuramente di colore molto strano. Scavi un po', trovi il posto giusto e metti questo seme. Ma la terra e il bosco devono essere magici, perché appena ricoperta la buca di terra, il seme germoglia, cresce, mette foglie e fiorisce di un blu intenso, profondo, caldo, oscuro ma caldo. È un colore notturno, ma a tratti bellissimi riflessi metallici di colore blu lo animano e portano in alto un profumo speciale che ti invade la mente e dalla mente si porta alla gola, che comincia a pizzicare piacevolmente. In realtà la gola non comincia a pizzicare, comincia a vibrare e senti che puoi dire qualsiasi cosa con una facilità incredibile. E la prima cosa che dal cuore senti di voler dire è fiat, e sia la luce. E a queste parole il fiore sussulta e intorno cominciano a germogliare altri fiori dello stesso colore, dello stesso desiderio. E questa fioritura improvvisa colma una sorta di linea, una sorta di via, prima invisibile, dentro lo stesso bosco. E la via si allarga, e la via fiorita comincia a brillare. E la via ti dice: alzati e vieni. Perché il blu iridescente è ancora più vivo più in là. I fiori brillano in quel punto laggiù. Ti alzi e cominci a camminare. E più vai avanti, più questi fiori che brillano si allontanano. E tu segui questo flusso. E questo flusso di luce blu ti inonda. E in particolare sembra avvolgere le tue mani, che non diventano blu, ma cominciano ad emettere quel particolare colore blu. Un blu profondo, intenso, magnetico, scuro, ma a tratti luminosissimo. Iridescenti anch'esse diventano le tue mani. È un blu che salva, è un blu che guarisce e che dalle tue mani si allacca sugli avambracci e poi sul cuore, che sussulta e si rallegra all'ingresso di questo blu. Un blu così pensieroso, ma anche così profondo e così saggio e così rasserenante. Pare dire al cuore e a tutti gli organi collegati al cuore: basta, la pace sia. E a queste parole finalmente giungi alla fine del tuo percorso, che è una grotta scavata in un monte di cui non vedi la cima. La via blu ti ha dunque indicato un fianco della montagna e una fessura, da cui entrare nel cuore della montagna. La pace sia, ti dicono ancora le tue mani e i fiori che dalle tue mani parlano al cuore. La pace sia in te, nel tuo cuore e nella tua mente. Ma la tua mente non si arrende a queste parole e ancora in lei qualcosa resiste, qualcosa di forte resiste. Non puoi che entrare in questa fessura oscura sul fianco della montagna per provare a superare questo ostacolo. Con coraggio in un attimo entri e il tuo corpo si spegne. Resta solo una luce blu tremolante di cui non sei tu la fonte. È la caverna stessa che genera questa luce, illuminando l'oscurità e rendendola navigabile, non più paurosa, ma serena e pacifica. Niente affatto gelosa dei suoi misteri, della sua saggezza, che desidera condividere con te. E cammini in questa fessura ed oltre, e l'antro si allarga strada facendo, e all'improvviso entri in questo mausoleo della terra, e lo spazio è molto vasto e grande, e gettando lo sguardo in alto vedi la fonte di quella luce che illumina il mondo sotterraneo. È una sorta di nuvola blu circolare che galleggia al centro della cattedrale. Non è però una nuvola, non è fatta di alcuna cosa palpabile, tuttavia sai che è palpabile perché è luce. Il cuore di questa luce è bianco puro e tuttavia presto diventa celeste e poi azzurro. E poi un blu profondo e metallizzato. E questi raggi blu dal cuore della nuvola stella si disperdono in tutte le direzioni e penetrano nella terra al di là delle rocce, persino fuori dalla montagna, nel più lontano dei luoghi. E tu sai che quei raggi non perderanno un cencio della loro intensità. E nel momento in cui comprendi la forza di questi raggi blu e il calore della stella blu e la morbidezza della nuvola blu che tutto penetra dal grembo della terra, appena ti sembra di entrare in più intima connessione con questa fonte luminosa, ecco, a sinistra vedi che si muove qualcosa. Cerchi di guardare meglio, focalizzi lo sguardo e ti spaventi, perché vedi un drago blu e nero, forse più nero che blu, perché ciò che ti fa sembrare blu il drago sono le sue scaglie che meravigliosamente riflettono la luce blu metallizzata della stella. E così tutto il drago diventa luminescente e blu. Esso si muove, serpeggia e inclina il capo verso di te, e i suoi occhi si aprono su di te. E allora provi a guardarlo negli occhi per comprenderne le intenzioni, e sai che i suoi occhi non sono blu, ma vedi che i suoi occhi, come tutto il suo corpo, risplendono di quel colore blu, metallizzato e vivo. Un blu che è più profondo del mare, perché più vivo del mare. E non hai paura di questo blu, di questo drago. chiunque egli sia, quest'essere non vuole ferirti, vuole però riempirti di saggezza, di comprensione, di pazienza. E allora sembra che ti dica qualcosa, avvicinati, però non lo dice con parole umane, ma il tono è perentorio e ripete: avvicinati, senti la sua voce nella tua testa e il tuo corpo si avvicina. Qualcosa in te ha paura, e ciò che ha più paura di avvicinarsi è proprio la tua mente. È quell'angolo oscuro della tua mente che prima resisteva alla parola "la pace sia". E tu ti scusi perché ti vergogni di stare alla sua presenza con tanta paura, con tanta incapacità di abbandonarti alla pace più profonda. Soltanto hai in te, nella solita tasca, un seme che ritrovi magicamente e desideri con tutto te stesso donarglielo, perché è l'unica cosa che tu hai nella tua mano, ora oscura. E nella tua mano, inghiottita dal buio, risplende questo seme. Risplende questo seme iridescente del solito magnifico blu elettrico, adesso ancora più elettrico, adesso anche quasi animato. Ne senti il calore sulla tua pelle e allora il tuo corpo prende il sopravvento, tende il braccio e senza la benché minima paura tendi la mano alle fauci del drago che mangia dalla tua mano il seme che tu gli hai offerto. E senti dentro di te il viaggio del seme dentro il drago, che trova un luogo così sereno in cui germinare e divenire parte del drago stesso, che da ora in poi sarà parte di te, con la sua pace, con la sua saggezza, con la sua capacità di uscire dalla grotta e di volare sul mondo per regalare fino agli estremi confini della terra quella pace che esiste nel cuore della stella. La medesima, identica pace che esiste e che viene generata dal cuore della stella blu. E poi ti guarda e ancora ti rivolge la parola e ti dice: poiché tu mi hai fatto questo dono, io farò un dono a te. E a queste parole ti svegli.